va bene così, avendo delle riserve andiamo bene. Anche noi di solito ce l'abbiamo delle riserve, però è capitato che anche quella di riserva poi l'avevamo consumata, però siamo attrezzati lo stesso, Natali, perché intanto siamo attrezzati con forretti, con piastre elettriche, e a voi la cosa che ci manca oggi? Abbiamo tutto, per cui in caso di necessità, sta tranquillo che non verrà mai asciutta la cucina a Matessi. Avanti Bruno. Ma io l'ho fatto qui da 5 anni fa, io avevo la cucina, avevo anche la cucina elettrica, adesso cucine le cose moderne con i forni elettrici non le so più fare, non le so più fare da 2 anni. Però mi ha comprato un forno elettrico di quelli preparati, però adesso io mi faccio fare un vario pianto, spacco la cucina, sono usuario, bravo, ma così. Allora, guarda, io di gas sto pagando minimo 100 euro a mese. Ogni tanto d'inverno, come qualche volta abbiamo il riscaldamento, i primi mesi io ho fatto causa a questa gente. Nel primo mese 600 euro di gas che abbiamo fatto un colpetto. Ma che cazzo è fatto un colpetto? Mi rompo le mani, ma poi glielo scagliamo, ma perché ci devono avere 600 euro? Io se ne ho consumato 200 euro, diciamo. Allora mi fanno più di giunta, mi scalata, mi fanno. Però, ripeto, una bombola a me durava 2 mesi a casa, solo per cucinare. Adesso lo dici, tutti i mesi, cosa abbiamo di cucina? Ogni trimestre, 200-300 euro. Vabbè, adesso vediamo un po' cosa fare, un sacco di quella brigata. Non è detto che rispetto, cioè, mi voglio spaccare anche da Abano, da loro, se sono costretto a spaccarmi dal condominio e faccio lasciare diretto dal comune, come dicevamo prima, non posso fluire più della caldaia, della caserma, e quando non c'è l'acqua pazienza, ma a mettermi in garage, a mettermi un bottolino con 200-300 litri d'acqua ce metto poco, io metto la piccola cisterna. Ah, vai che già ti fanno attaccare alla cisterna del condominio, cosa ci intendi? Cazzo, ti fanno attaccare sì, o senz'era rimani, non possono negartelo. E cavaniru subito, se mi si risente che paghi così, cavaniru subito. A chi io quando entro in bagno, le vacanze raggio subito, non fra 2 mesi. No, ma poi c'è una cosa, Ma poi io sono perché io sono un bagno, faccio una roccia dalla parte, no, dal bagno. Allora mia moglie entra nel doppio servizio, mi fa la leva, come cambia il danno, un po' di bruci. È un po' troppo fredda, ma non è come se non capivi, ma se lui si è ghiacciato, perché con la passata della campagna era continua, era sempre calda. Comunque cosa sistema? Quanto sta a caldare la caldaia, ci vuole 3 ore ad arrivare, provo che la mia vita non si faccia arrivare a fredda, non mi piace. No, no, è un manicuro. Adesso vediamo, perché tutti non gliene regalo più. Avanti giù. Così è brutto, infatti no, non si possono buttare soldi così, in questo modo, no. È così lo stesso discorso per il coso, o per il riscaldamento. Io ce l'ho col pellet il riscaldamento qua, i radiatori lo stesso sono sempre alimentati dalla stufa pellet. Prima ce l'avevo a gasolio, ma era una tassa fissa, era per carità, invece adesso vai, compri il pellet, io me ne compro sempre una quindicina di sacchi per volta, me li porto qua a casa, quando vedo che stanno cominciando a diminuire, vado, ne compro un altro po' e ce l'ho sempre di riserva. E col pellet scalda la casa, a meraviglia, scalda. Sì, è vero, ho dovuto comprare la stufa, ovviamente, 3.000 euro più o meno, costa una stufa ristretta. Però faccio la casa a casa, in tutti i punti, è con meno spesa rispetto a prima. prima, invece quando usavi il gasolio, intanto minimo te ne portavano 500 litri, minimo. Ma dimmi tu, se uno è obbligato per forza a comprare 500, se ne puoi comprare 300 litri, tu me devi portare lo stesso, nulla va, minimo 500 litri, se no addirittura anche di più. Per cui allora abbiamo cambiato un sistema, ma questo è già da tanti anni, non è da adesso che ho fatto l'impianto con lo pellet, e devo dire che va benissimo, senza odore di gasolio, senza odore di niente, proprio alla grande. Vai Natalia. Oggi io la sua pellet, che non avevo fino a 2 anni fa, ma dico la verità, andando. Vabbè, dovevo prima avevo 6 gradini, poi c'era la ricchezzina, 3 gradini di spettacoli di scuola, ma era sempre un carrello, non era sempre un bello, e pulendo la pupa di tutti i giorni, non c'era solo il pallone, l'ho eliminato. Adesso ho preso un sacco da gas, un po' uso i condizionatori, un po' la pupa di gas, e andiamo avanti così, non si può, non si tocca. Tutte le volte che accendo le gas d'inverno per riscaldarmi, forse il 300-400 euro non mezzo, ma guarda la fanculo, ma non è possibile. Ma come si stava attaccando? Quello sì, deve portarlo il pellet, questo sì, ma uno non è obbligato nemmeno a... Vabbè, tu mi dai, deve fare i piani, hai ragione, è un po' più faticoso, ma io ho già, per entrare a casa ci sono 5-6 gradini e sono già al piano, per cui nella sala, dunque lì ho lo spazio giusto per metterci il pellet nel sottoscala e ce l'ho sempre a portata di mano, non vedo problemi. Per dire, no, però c'è un risparmio notevolissimo, perché almeno, ripeto, in un anno, cioè in un inverno io cosa posso consumare? All'incirca 100 euro di pelle per mese, non più di 100 euro, di meno sì, ma di più no. Per cui se l'accendo per 4 mesi e in un inverno ho speso 400 euro, 5 mesi 500 euro. E mi va benissimo, invece in quel modo là, dare via lo gasolio e prendere 700-800 euro di colpo, così capita, ma non me lo basiava, no. Invece in questo modo, guarda, me lo compro io, mi riempio la macchina nel portabagagli, ce ne stanno 15 sacchi, ce ne stanno tranquillamente, poi a uno quando mi aggiungano me lo porto dentro casa. Per cui per il bene che poi niente. Natalici, sì? Ma io se tu lo spazio fuori, che ne vuoi da qui, è lo spazio. Sono quei piccoli monti a casa, piccoli monti a persone, quelli che si facciano la parola, che fanno il piano, quelli lì. È una fascia, ti può venire un locale che ho visto dal ghetto, quindi si aveva la piano terra, e sulla piano terra avevamo deposito. Poi ci sono stato questo porta persone, non ci si posiamo. E lei che va così. No, non ci sono io per le cattive vive, e questo mi piace anche mal sopra. E sono domani, se non avrò più voglia di portarsi in pelle. A quale? Anche con 35, non riusciamo a montare i monta persone. Ma c'è una pizzeria, c'è lo spazio, c'è fatta la parete e fare il super del campo. Ma se per quello ce l'ho io il montacarichi o... Oh, blu, ce l'ho da quando stavo facendo la casa, per cui non è un problema. E i catanelli di sabbia e di cemento ho tirato su, io su nella mansarda ho un poggiolo tutto attorno, no? Nella casa, come nel piano di sotto, lo stesso, c'è il poggiolo tutto attorno, ci sono 18 metri di poggiolo sia nel piano di sotto che nel piano di sopra. Per cui lì avevo fatto una staffa, avevo fatto attaccata al muro della mansarda, giù uno, mancanza la caldarella per dire, e io da su tiro su col montacarichi, che ce l'ho, il motorino, che tira su con una fune, tira su un quintale. Con due funi tira su due quintali, sicché vedi bene, ma io lo uso a una fune, intanto io non è che devo portare carichi troppo pesanti, tranquillamente, se che ti puoi immaginare, al limite, quando arriva, a parte il fatto che per il pellet non ho necessità, perché ripeto, per portarlo dentro casa ho 6 gradini, se che ti puoi immaginare, va bene così. E poi volendo io ho anche l'armadio nel malatoio dell'ingresso, posso mettervi anche lì, potrei mettervi i sacchi. E dunque ce l'ho portata di mano anche, tanto lassù fai nella sala che poi distribuisce il calore tramite i radiatori per tutta la casa. E così, vediamo se è diventato Natalino. Natalino. Eia, stavo chiudendo lo scaldabagno, indovinata la prima, già 80 plaque si è bloccata la sura. Hai visto? E quando è quanto è salito? A 70 hai detto? No, 80 è salito. Ah, 80 va benissimo. Va benissimo, e quella è la temperatura da tenere nello scaldabagno, Natalino. Perché quando stai facendo la doccia, sia tu che tua moglie, non ti manca mai l'acqua calda. Se invece hai una temperatura più bassa, a un certo punto uno dei due incomincia a sentire l'acqua un pochino più fredda. Invece in quel modo ti va la luce a tua moglie e te ne avanza anche di acqua calda e sei a posto. Avanti Blu. Ma io l'ho avuto sempre da Natalino. Io ho sempre comprato acqua. L'ultimo però era quel modello elettronico, digitale, il casino. E di non vale, vediamo il plano. E nel senso io, il fratello, quando lei, allora intanto, anche se compri di quelli, garantia danni, che adesso non fanno il salotto, la faremo, la cellula interna, come sono messo i cambi, ora faccio questo. E guarda, se ci danno davanti a 2 anni, vabbè, se ci danno davanti a 5 o 10 anni, si può rompere anche dopo 2 anni, come spesso a me, però tanto non lo cambiamo. Per cui è utile trovare quelli da davanti in corso. Ma questo è stato anche la interna, la vetrificazione. E un po' quanto uguale, per cui qua si sta da parte. A un certo punto, quello che dice poi, hai finito l'idea, sei compri una lezione di garanzia a 2 anni, e magari ci dura le zone. Sì, ma è quello che stavo dicendo poc'anzi, all'inizio del QSO, io stavo dicendo quello, Natalino, che l'interno, a me un amico iranico, ma mai che sono tutti precisi, è solo la marca e poi ognuno si fa pagare la marca, però in realtà su tutto quello che riguarda l'interno dello scaldabagno è tutto uguale, non ti devi dire adesso, è tutto uguale, perché sono costruiti con una certa... con un certo criterio, perché se no non potrebbero essere collaudati, eccetera. Per cui va bene, che un visto di 2 anni, come già dicevano tutti, può durare anche 5 anni. Ma io l'ultimo che avevo era di 5 anni, ma l'ho usato almeno 7-8 anni, sicché ci ho guadagnato. Come negli anni passati, io parlo di parecchi anni fa, quando ancora c'era Michelitti qui a Santa da Pedaniega, avevo comprato da lui lo scaldabagno 10 anni, e ti dirò che dopo 2 anni, 3 anni mi si era bucato, però sono andato e me l'hanno cambiato, la verità, in garanzia me l'hanno cambiato. Ma per dirti, ma intanto era già un disagio, Bru, ma l'abbiamo pagato un sacco di dinaro a te, con la scusa che era di 10 anni, invece in tal maniera con 120 euro me ne sono uscito. Anzi, per l'esattezza, 119 per l'esattezza. Lì da strada si apre da niente, strada 20-24 mi sembra che sia quella. E vendono tutto, vendono anche il pellet, e vendono tutto, tutto quello che serve per l'idraulica, insomma, di tutto hanno lì. Ah, io non so dove li compravo, sempre da R le ho comprate, sempre, le scaldabagni da R. E comunque poi quando si bloccava l'affare doveva andare da Lado, perché Lado ha l'assistenza di quella marca, però una volta che si è bloccato sono andato, non c'è problema, allora ho subito cambiato. Poi lo sai che ho tracciato adesso, che c'è seduto qua a vedere, te lo ricordo, ha rubato, il figlio di Gardino ha rubato, a Bruno. Bruno ha rubato, c'è lì, vicino a te. No, adesso sono passato, lui era, siccome siamo stati da San Francesco, e lui è seduto lì col cane, e io sono passato dritto, lui tutti i giorni lì sta, e poi siamo andati a vedere tutti i giorni, mattina e sera lo trovi lì, col suo cagnolino. Ah, così, ma non abita da quelle parti, evidentemente abita da quelle parti. No, lo so. Non è, io pensavo che era a casa della madre, invece no, è lì. Evidentemente è indipendente, abita da quelle parti. No, no, lui abita, se c'è la casa mia, abita a casa del padre. Io abito lì, come abita lui, no, abito 120 più su. Solo che se ne sale qua perché ha questo cagnolino, lì al Belvedere, San Francesco. Là dove la San Francesco, là c'è la chiesetta. Sta venendo adesso al comune, mi ha fatto un ostiazzo, bello, bel posto, vede tutta la città. E io mi fermo ogni tanto salutando, sì. Ho capito, è solo qualche anno che sta a vederlo io, l'ultima volta che l'ho visto risale a 5, 6 o 7 anni fa ed eravamo lì vicino al mercato, eravamo, me ricordo benissimo come se fosse oggi, infatti stavamo parlando di tutte le radio della buona anima del padre e poi non lo so che cosa ne abbiano fatto, sicuramente ce l'avrà lui, boh. Mi ha detto un giorno, dall'anno scorso. E uno di questi giorni si pensava anche alla fine, tiriamo più. Alla fine, adesso non ce l'ho più. Ma adesso ce l'ho io. E gli ho detto, ma me ne vendi uno? No, ma adesso sono preso, sono più di niente, una casa di bambino. E ne ho preso uno, e c'è una frequenza, ma adesso. Noi abbiamo più parlato, è capitato di... Prima abbiamo chiesto uno da un amico che sta in frequenza. Lui invece, affogando, gli ho trovato un garage. Un altro me l'hanno regalato, però quello lì riceve ma non si trasmette bene, quindi è stato soldi. Ho capito, sicuramente qualche cosa ce l'avrà tenuto, anche come ricordo del padre, eccetera, sicuramente, magari non avranno più le antenne, eccetera, ma suppongo di sì. Suppongo che qualcosina gli sarà rimasta sul tetto, non credo che sia salito a smontare tutto, boh, comunque. Va bene, mi sarebbe piaciuto rivederlo così per salutarlo, eccetera. Natalice, sì. Sì, vi ascolto, dai, che mi ho dovuto fare l'insulina e sto mangiando giù. D'accordo, Natalice, dai, buon appetito allora. Ci sentiamo alle prossime. E anch'io fra un po', non è che mi trattengo molto, sono già le 7:30, per cui siamo vicini alla cena. Avanti Bru, per salutare a Natalino. E ok, Natalino, ci sentiamo, fate bene. Se riesco, sto pensando qualche altra volta. Perché ripeto, se io sorto, quando ho sorto io ho tolto l'antenna dal balcone, avevo una boomerang che avevo comprato da Fusaro, di quelle boomerang che da 3 metri, non quelle con la piaga. Però poi non, da casa non potevo più parlare perché bombardavano da un canale all'altro, sentivo gli splatter, io c'ho Gianni vicino e lui purtroppo non usava apparecchiature molto basse, allora sentivo un casino, ho ritirato. Per cui adesso per parlare qualche volta uso questo, però a casa non ho più niente, tanto quando andavo a parlare con qualcuno basso non sentivo niente, e Gianni ce l'ha scelto lì. Va bene, riprendi giù. Ok, non so, lì nella zona dove sei tu ci sono diverse persone, anche se ormai in frequenza non c'è quasi più nessuno, però quando attaccano si sa, gli splatter si sentono, e come, altro che se si sentono, già lo grido, purtroppo è così. E vabbè, come vedi stasera siamo più di un'ora e mezzo con Natalino, mi sembra che erano le 6 quando abbiamo iniziato a chiacchierare e non è entrato nessuno, sei entrato solo tu. Ormai non c'è più nessuno, la gente si è stancata, non ne ha più voglia di parlare al baracchino. Tanto peggio anche la mattina ancora peggio che mai. A differenza di prima, ti ricordi quando in quegli anni famosi quanta gente c'era e quanti canali tutti belli occupati, da 7-8 persone per ogni canale. Purtroppo non sono passati quei tempi, o Blu. Se volevi ancora ma fare già. No, ma era diverso perché oggi purtroppo telefonini con quello che siamo stati dietro, perché qualcuno di tanto tanto è anche a salutare, però non lo so, probabilmente io non ho stato sempre di quello che non è stato, allora io siamo pochi, però se per dire tutti quanti avessimo avuto un po' di pensiero, qualcuno a cercare una cosa mi sta parlando, io sto entrando poco anche perché molte volte nei canali ci sono questi che chiedono solo controlli, bombardamenti, apparecchiature e cose, vabbè ognuno si fa il cavolo di suo, è vero, però alla fine io quasi faccio quando questi stanno sparando, tanto fa andare e io quasi non mi sento, sono addentrato, capisco, molte volte sono dentro dei paesi, allora per non entrare a loro e non mi sentono, non entro neanche, capisco, ascolto, poi qualche volta sono voluto entrare, ma se tu entri con chi fai fatto, ci sta nei sensi e senti a tutti, e oltre che tu pari a zero, di qua, di là, poi alla fine mi sta continuando a andare, e poi peccato perché sta, il tuo amico si fa piacere, e che fanno di tutti i buoni. Oltre 50 anni, Bruno, non so più, capita, ti puoi immaginare. E tu vedi frequenza prima che arrivassi io. E dunque ci eri già, vabbè poi magari hai mollato per un bel po' di anni. Invece io non ho mai mollato, Bruno, io da quando sono entrato non ho mai mollato, ci sono sempre stato. Mi ricordo nel periodo, diciamo, di Magra, come il numero di persone, c'ero io, Gio Maria, poi c'era Mario Mao, Emanuele Forza Pilato, poi c'era quello di Usini, anche lui, e qualche altro che adesso non mi ricordo più nemmeno. E parlavamo un po' in 27 e un po' anche in banda marina, perché avevamo l'apparecchio marino, avevamo, e eravamo sempre intorno al canale, forse 68, non mi ricordo bene, boh. E parlavamo lì, o noi ci ritrovavamo o in 27 oppure sul canale marino, tranquillamente. Io forse c'era anche Andrea Duria, adesso se mi ricordo bene c'era anche lui, ti ricordi Andrea Duria o Bru? No, un attimo non lo ricordo, ma dove ce l'ho presentato? Sì, ma ce ne erano tanti, ma il periodo di Mao era già 80-90, e anche la roba invece. Sì, ma ne abbiamo conosciute tante, ma quella notte si andava nei paesi a trovare gli amici, e trovate che avvenute a quattro volte, era sempre ai ginocchi, no? Abbiamo fatto di tutti i colori, allora io non è fatto che ero minorenne, ma è vero che la concezione era stata mio padre. Io sono entrato tramite sorellani, no? Sì. E lui sulla sagra dei vecchi, essendo a casa io ho iniziato a vedere a lui. Nel 71 già c'era una presa, perché nel 71 mi ricordo che ho fatto una registrazione, nel 71 sono andato a lavorare, allora io lavoravo a Luna Sole. Nel 71 ero in via Gabriele D'Annunzio, poi a fine anno 71 mi sono trasferito alla piscina, siamo stati in Luna Sole, e ho una registrazione fatta con un paio di amici, e una di queste, una stereo 7, una di queste registrazioni c'è Mario Bravo Charlie, c'è Rinalda, te la ricordi a Rinalda? Quella ragazza di San Camillo che parlava da lì, che va a fare amici, poi con Bello che ci famo, Bello, come si chiama quel ragazzo di paese che abitava qua, Giampaolo Bello, era una greffa, avevamo fatto una greffa, che ci andava a sentire da Giovanna, una ragazza che parlava da San Camillo lo stesso, era un periodo, sto parlando di tanti anni fa, 71, 72, perché c'è questo particolare di questa cassetta, che ho sentito anche da poco, una serie 7, dire? Di quella ti volevo chiedere dall'altra volta, poi mi era uscito di mente o blu. Quella ragazza, tu stai parlando di quella ragazza che era a San Camillo, che purtroppo era poliomielitica, di quella stai parlando? Sì, di Rinalda, beh, non è che era poliomielitica, aveva un problema al ginocchio e aveva l'apparecchiatura metallo, no? E camminava normalmente. Sì, ma io l'ho vista anche da poco. Noi ci vediamo ogni tanto, siamo arrivati amici. Lei è la ragazza madre, ha avuto una storia di burrascosa con marito, separazione, cose varie. Ha una figlia grande, io l'ho conosciuta da poco, figlia che avrà almeno una trentina d'anni. E lei fa la bidella, abita al monte. Ci vediamo ogni tanto, sì, non la voglio salire. Stava a San Camillo perché lei famiglia non ne aveva, capito? Lei non aveva famiglia, per cui era lì, aveva questo problema alla gamba. E noi ci eravamo assieme, abbiamo fotografie. Sì, me la ricordo bene quella ragazza. Solo se la voglio, adesso magari non la riconosco, anche perché sono passati 50 anni e oltre, o blu. Cioè me la ricordo, sì, veniva sempre quella lì insieme a mio cognato. Perché anche mio cognato, io ho un cognato che purtroppo ha quel problema anche lui, alla gamba, e dunque erano amici fra di loro, infatti andavano sempre in giro con la moto di mio cognato, Gabi Cemitano, bravissima persona, ma in moto era pazzo, adesso ormai è un uomo grande anche lui, fa 60 anni, dunque ho 61, per cui adesso già è tranquillo, poi è sposato, ha figli grandi, eccetera, eccetera. Quella Rinalda, che io non mi ricordavo il nome, non me lo ricordavo, guarda, l'altra volta te lo volevo chiedere, ma non mi era venuto in mente poi di chiedertelo nei vari passaggi. Rinalda si chiama, sì, me lo ricordo bene, era una brava ragazza, tranquilla, io ripeto, per quello che l'ho conosciuta, era veramente anche molto simpatica, veramente, una ragazza allegra, ma perché allora era giovane, dunque se non era allegra in quel periodo, quando era giovane, quando di batte allegra. No, ma lei stava sempre vivendo, io faccio sentire una registrazione, cioè, capita, che fai certo risalto, perché lei era così, parlava zero con tutti, no? Ma da poco stava con questo tipo, che aveva una guardia giurata, che ci conosciamo, un amico. E poi un amico mi ha detto, no, sono separato, ma con lei uscivamo, a lei l'abbiamo conosciuta noi, l'abbiamo tirata fuori noi, il baracchino gli abbiamo dato noi a San Camillo, perché se tu ti ricordi il vecchio complesso di Azimut, dove c'era Piero Conco, Gruppo Triste, te lo ricordi che modulavano loro, Gruppo Triste, Piero Conco, e sono quelli che avevano piantato l'antenna poi a Mario Bravo Carli in Campania. Noi siamo andati a suonare, perché ci curavamo questo complesso, siamo andati a fare una serata a San Camillo, abbiamo conosciuto queste ragazze e siamo diventati amici e ce le portavamo in giro dappertutto. E però che noi avevamo fatto conoscere noi a loro. E così la storia parlavamo di noi. Ma poi eravamo diventati amici, andavamo a prenderla la domenica, e la portavamo a casa a mangiare, un po' di voci. Aveva un'amica di tempio, Giovanna Sanna si chiamava, e andavamo a tempio con Vittorio Melo. Te lo ricorda Vittorio Melo? A voglia, grazie. Tutti i nominativi che mi stai facendo venire in memoria di nuovo, che io ormai li avevo persi come nominativi, cioè, certo che me lo ricordo. Vabbè, tu sei anche prima di me, nel 71, io sono entrato nel 72, come eravamo tutti allora in quel periodo, però per dirti, no, nonostante tutto, fate un conto, siamo nel 2001, io ci sono già 49 anni e mezzo e oltre in frequenza, tu mi dici 50 anni più. Anche se poi hai mollato per parecchi anni. Quanti anni hai mollato, Bru? Sì, parecchio. Non ce ne fanno, penso. Sì, ma c'erano tanti amici, avevano una greppa che non finiva mai. Con Vittorio Melo, con Vittorio siamo rimasti amici, ci vediamo ogni tanto. Sì, amici di famiglia siamo rimasti. Andavamo a pescare assieme, perché lui la parte della pesca e con il motoscafo veniva sempre con me e poi lui pescava anche con me, non era fratello. Sì, ma tanta gente, ma molta gente continua a vederla, se ci mettiamo a raccontare i nominativi ne avevamo passato un po' che... Auguria! tanti tanti, eravamo veramente tanti. Adesso è che siamo ridotti proprio a quattro gatti, per cui c'era anche da dire che era importante anche la presenza femminile, perché tanta gente entrava soprattutto perché c'erano le donne, però quelle persone, le cosiddette persone fianchina, come dico la casa, no, che quelli si lanciavano proprio nei canali dove c'erano le donne sempre, anche quello era un incentivo per poter avere sempre il numero di persone sempre superiore, maggiore nei vari canali. Ma oggi purtroppo donne non ce ne sono più e dunque la gente no, i franchi non ci sono più a buttarsi a capofitto per chiacchierare con le donne. Sì, abbiamo chiacchierato poco, sicuramente abbiamo chiacchierato di notte, ma devo ricordare Giulio e abbiamo passato giù di colori, ma poi mi vedevano un bel mentre parlavo di giocare un campanello, beh, un caffè pronto, adesso non voglio nominarla perché le donne non si devono nominare. Sì, di sì, stanno facendo proprio la terra, con il microfono fuori. Adesso sono stati più grandi, a questa parte. Sì, abbiamo passato, quando andavamo a ballare anche, quando c'era mio fratello, se ricordi, a c'era Renato Cocco, e a quella greffa, c'era aggregata Istria, un sacco di gente, naturalmente la greffa di Alghero, me ne ricordo, altro che se me ne ricordo. Anche Renato era un bel budichino, lui sempre ha preso le donne, comunque anche lui ha fatto la sua storia, purtroppo ormai è deceduto tantissimi anni, poi vabbè aveva avuto quel problema che si era separato con la famiglia e è andato a vivere già non sappiamo dove, per dire no, anche lui una volta mi ha detto giù vieni che ti faccio vedere una cosa, e cosa mi fai vedere? E mi ha portato la stanza di vecchio lì, una strada parallela a costruttività o blu, mi ha portato, ha fatto la porta in questa casa vecchia, in questa palazzina, entriamo dentro per salire su, se laggiù c'erano scalini alti, tutta all'antica, sai, gradini delle scale, all'antica, ed è questa casa, questa l'ho comprata apposta, dice, per portarmi le donne qua, per portarmi le donne. Era un bel folletto, Renato era grande persona, la verità, una persona seria, una persona educata, però le donne le acchiappava proprio anche perché forse aveva le possibilità, che ne so. Sì, a parte che stava bene Renato, ma dico una persona dritta. Sì. Al secondo o terzo piano me lo chiamava la letto, anche a perdere, sto già detto che oggi ho frequentato un bel, sì, e beh, lì c'è una persona, c'è passato il tempo, c'è una cosa, c'è una buona compagnia, la buttavi lì, va bene, ho capito tutto, sì, dirami, non avevo tanto. Già delle chiavi, è stato un bellissimo periodo che ci abbiamo passato, andavamo a Parigi, da Briscolone, andavamo in questi paesi, ma siamo divertiti, ho fotografie in diretta a casa di Francesco Briscolone, a Parigi, e a una festa che abbiamo fatto lì, ma abbiamo fatto due o tre colori, siamo venuti a fotografie che abbiamo fatto da Alghero, una Rossi, tutti imbriati, era Renato, ha fatto un casino. Materiale che stiamo dopo i tanti che ne ha fatto, per esempio controllare le scelte. E niente che ne ha fatto. Vabbè, riprende, facciamo un altro passaggio, poi comincio a scendere, io devo cominciare a sistemare la macchina in garage e tutto. Ok, Bru. Sì, me lo ricordo proprio come se fosse oggi, Renato. Io lo vedevo quasi tutti i giorni, lo vedevo cane, l'altro. E come vivo anche a tuo cognato, attore, lo stesso. Passava sempre da me in falegnameria a salutarmi, eccetera, eccetera. E a raccontarmi tante storie. Mamma mia, tanto me ne ha raccontato. Era una persona comunque molto in gamba, molto simpatica, attore, la verità. È un amico che devo dire che è mancato nella frequenza. Purtroppo è la vita questa. E così Renato, lo stesso discorso. Ma tu accendi una volta che si stava incendiando la stazione radio di Tore a casa sua, tu c'eri. C'eravamo una gaffa di persone, che adesso non ricordo nemmeno i nomi di tutte quelle che c'erano. A un certo momento sentiamo questo odore di bruciato, di gomma, e dietro la stazione di Tore c'erano dei fili che hanno scaldato, erano andati in cortocircuito, e meno male, grazie a che non si è bruciato niente. E subito è arrivato Tore, ne ha staccato tutto, e ha detto, ah, finisce, mi si incendia la casa qua. Non so se l'avevi saputo quella storia, o blu. Io ne ha fatto tutti i colori. Mi dispiace che adesso tutte le apparecchiature, quando è morto Tore, noi tutte le apparecchiature abbiamo tirato lo scatolo di cartone messo nel postiglio. Purtroppo il figlio, che ha la testa di legno, che poco gliene fregava, ho sentito dire che amici di Torellai hanno approfittato, capito? Subito sono andati, e mia sorella non ne capiva niente, poveraccia, anche lei, è morta anche lei, comunque pure mia sorella, morta 2 anni fa, e allora abbiamo smontato le antenne, ci hanno portato via, ci hanno portato via le apparecchiature, e io se io avessi saputo che questi qui stavano trafficando, se avrete aspetto un attimino, abbiamo bloccato tutto, ci darebbero più che di niente voi. Invece, siccome, ripeto, già te lo racconto come sono andate le cose, penso anche di via, penso non sia arrivato quasi niente a casa di Tore, mi dispiace anche. Lo so, purtroppo, sai, alle volte ci sono delle persone che se ne abusano, che ne approfittano, e vabbè, pazienza. Già lo conosco, già l'ho conosciuto il figlio, già l'ho conosciuto. Era sempre lì davanti a Bottega, in quell'angolo, se non capisci dove. Era sempre lì tutti i giorni, immancabilmente, era lì. E aveva un vizio, però era grande. Ed era lui padrone di se stesso, per cui ha fatto la vita e sta facendo la vita che vuole, che se ne frega. Pazienza. Però era tutta un'altra storia il padre, il padre era veramente... Una volta mi ricordo, c'era uno facendo prepotente in transito, lui stava guidando, Tore stava guidando, si ferma, ha preso questo qui, scende da tra. No, io non me ne scendo, prende, ha avuto un ciaffotto, ha avuto pure la rotta. Ah no, con Tore non si scherzava, già se ne sono battuti la mosca da sotto il naso. Ma lui l'ha fatto così a quei tempi, l'ha fatto così, già andava in galera. Scusa, una volta stavo andando a Pratamona, io ero nascosto dietro perché ero piccolo, 12 anni, cazzo, mi ero guardato da lì perché il comizio andava a Pratamona, ad Agua. A un certo punto tutti quanti ragazzi, studenti parrucuri, stavano drin, drin, drin, drin, e trovavano il campanello, e diceva, mettetela di suonare il campanello, mi ricordo come io, scendendo, andando a Michele, senza mona, ma poltrano, cazzo, ha chiuso la porta, se ne è uscito fuori, per andare in radio, noi stavamo andando a Pratamona, in piena estate, alle 2 del pomeriggio, li ha chiusi dentro, stavano morendo, cazzo, se lo fai oggi, ti mettono in galera, ti mettono, cazzo. E Tore mi punì a poco a bloccare un tram in mezzo di strada e a cui ti ha fatto dei da culo. Sì, è una brava persona, ma queste cose non si possono fare. Quando girava le sue pietre era sempre incazzata, sempre a bordo, mamma mia. Io ho preparato a lasciarlo perdere, vabbè. Adesso se ti prego, io va bene. Vabbè, ti passi di pintare nervoso pure, mi. E anche quel mestiere lì che ti porta a essere nervoso, capito? E gli scolari gli rompevano le sedie del tram e cosa, è logico che quello doveva intervenire, non li potevano devastare il tram. Sì, vabbè, allora io sono andato a casa, saluto, perché attende, ci sentiamo la prossima, ciao, ciao, ok, ciao Blu, grazie a te per la chiacchierata, dai, alla prossima volta tiriamo fuori un po' di vecchi ricordi relativi ai personaggi della frequenza, eccetera. Va bene così, avanti Natalia, anch'io adesso chiudo, tu hai già cenato, io sono già arrivato all'ora della cena, per cui adesso te mi lancio, ascolto il tuo finalino e dopodiché chiudo anch'io, Natalia, vai. Prossima volta parliamo del rosa verde. Importante d'oro. Vabbè dai, ciao a tutti, chiudo anch'io, dai, così finiamo in bellezza. Speriamo di risentirci Bruno, alle prossime. Ciao Giulio, anche a te, buona cena, buon tutto. Ok, ciao, ciao Natalia, saluti in casa, ci sentiamo. Ciao di nuovo Bruno, alle prossime. Sì, alle prossime. La prossima volta parliamo anche delle avventure di Rosa Verde. Ciao Bruno, ci sentiamo, chiudo. Rosa Verde, c'è il suo bastone. Ci sentiamo, ciao ciao, buonanotte. Andiamo, certo. Antonio.